Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Ed eccoci qui alla nostra postazione quando sono le 2.56, sabato 8 settembre del 2018 dovremmo, e faccio la segnalazione ufficiale al nostro responsabile tecnico qui al convento, rifare la sigla perché manca un Mr. Dave all'interno della sigla. Cioè, nel senso, c'è scritto le pillole del convento con Nicola, no, nella sigla dico c'è scritto Nicola, Nadia e Sandrino e manca un Mr. Dave, sì, quindi dovremmo... Mr. Dave, beh, insomma, sarebbe da sistemare, ci sta... No. Non ci sarebbe, capito? Non ci sarebbe. Buonasera a tutti, bentornati. Siamo reduci da un'altra lunga serata ormai nottata qui al convento di Nonanto e come sempre cerchiamo di riassumere in pillole, e proprio per questo la rubrica si chiama Le Pillole, quello che è successo e come è andata. E due attivissimi, Sandrino e Nadia, sono qui con noi che stanno facendo i mimi in radio. Esatto, stanno facendo gara di mimio e compilando un 7.30 online nel frattempo. E Nadia si è fatta male. Si è fatta male? Si è fatta mimi. Mamma! Questa è forte. Era quella. È bello poi che sono sempre io la protagonista. Mai che Mr. Dave fa qualcosa, ma sempre io. Bravo! Irreprensibile sono. Mi ha colpito questa. Questa è lunga da attaccare. Adesso mi sento sotto pressione perché devo almeno avvicinarmi a una. Piacerebbe saperlo. Se non lo sai, sallo. Non l'ho capita. Mi piacerebbe sallo, sapere mi cosa vuol dire? Si è fatta Mimmi. Ah, perché non lo sai? No. Mimi, non lo dici, non lo dite da voi? Fatto Mimi, sono fatto male. È un modo un po' tenero. Ho capito, sì, la bua. Bravo, okay. Quella che si dice ai bambini, sì, la bua. Ma perché? Dove? E che ne so, l'ha inventata Sandrino, ce lo dirà lui. È caduta. Sandrino, dov'è che mi sono fatta messo male? Spiegami. Davanti? No, dietro. Ma soprattutto la domanda che tutti si fanno: Nadia aveva gli airbag quando si è fatta Mimi? O ha avuto dei danni? Allora, innanzitutto, per chi la conoscerebbe, saprebbe che gli airbag sono. Sono frontali. Sono di serie. No, più che altro, esatto. No, a parte di serie, esatto. Insomma, il prototipo Nadia ha dei problemi perché di solito gli airbag escono a urto, cioè quindi, dopo un urto, mentre Nadia li ha fuori sempre. Praticamente. Esatto. Allora, sono sempre lì. Via preventiva. Perché urta Nadia. Esatto, urta. Se Nadia fosse una macchina, che macchina no sarebbe? È bella questa. Se Nadia, allora, io so cosa saresti te. Anch'io cosa sei te. E cosa sono io? Ma che teneri! Veramente. Vedo già gli inviti a nozze. Ve lo dico io. Però non darò spiegazioni. Sarei una bizarca. Che macchina? L'ha inventata bizarca adesso. Le bizarche sono quei camion che trasportano le macchine, che cedono i limiti di sagoma. Perché rimorchio tantissimo per quello? Quello sarebbe il carro attrezzi. Ed è quello che sei te. Io sono una bizarca, ma ho detto sì subito che non spiegherò perché. No, vabbè. Io voglio dire, la macchina che sei, secondo me, è un bel maggiolino. Maggiolino. Non ci sta. Siamo maggiolino. Non ci sta. Vabbè, ci sta. Andiamo avanti. E invece tu sei la Volkswagen, Nadia, la macchina del popolo. Nadia è Das Auto. Nadia è una Fiat Technik durch Vorsprung. Das Auto. Neanche das sputato nell'occhio, me lo dicevo. Nadia è una Fiat Duna. che macchina è? La mia è vera, la Fiat Duna, cioè. Sai cosa sei te? No, ragazzi, una delle più grandi fregature della storia dell'automobile, sì. Però non per quello, per il fatto della duna che è ricorrente, no. Ma sai che cosa fa una Fiat Duna nel deserto? La duna. Aspetta qualche duno. Questa era a pagina 45 delle barzellette di Totti. Sì, esatto. E c'era questa qua. No, firmata. Mr. Dave. Io ti dico tra l'altro che questa qua l'ho letta sul Topolino. Vedi? Cioè, Mr. Dave è il Topolino. È quello. E il questo spiega tante cose. Comunque, sai cosa saresti te? Sì. Che cioè, no. Il dito Tu saresti una Fiat Idea. Grazie. Grazie. Tra l'altro, pazza idea. Lampadina, e sapete invece. Tra l'altro, pazza idea. Invece, sapete che sapete tutti, no, che macchina guido io? Una macchina molto particolare che amo tanto. Con lei sei davanti. Eh? Il modello quello sup, quello. No, la Mercedes Classe S l'ho venduta perché era troppo da figattina. No, adesso guido una macchina particolarissima, una che Volkswagen, è sempre una Volkswagen, das ovviamente, da auto. Ed è la Bora. Modello S-Line. Modello S-Line, non certo, c'è, non c'è, solo sull'Audi S-Line. Però sapete cosa significa Bora? Certo. Che cosa? Ah, scusa, no. Allora, non è Bora Bora, cioè, che è l'isola, infatti, io ma è ero rimasto al vento. Poi c'era tu, neanche il vento? No. Poi c'era la venta, la venta, è la venta. Tuca tuca? No, allora Bora, la Bora ha avuto un successo enorme negli Stati Uniti e anche in America Latina. Beh, ha avuto tant'è un successo in tutto il mondo, se devo essere sincero. Cioè, nel ovviamente, senso che però, ha sempre successo. Però sai che hanno smesso di produrla, eccetera, eccetera. No, sì, io la produco ancora. Vabbè, dopo vabbè, indipendentemente comunque niente, anche compagnia, comunque anche niente adesso, è stata progettata per il mercato latinoamericano in particolare. Sì. Oh, ma mi interessa o no? Sì, no, sì, tantissimo. Cioè, non ho capito. No, scusa, vedevo l'ora. Cioè, una volta tanto sì, che abbiamo dice una donna, cosa seria, certo. No, che abbiamo una donna che parla di automobili. No, no, questa è una lezione fatta e finita. Ecco, perfetto. E ci metterò pure una piccola lezioncina etimologica sul perché si chiama così. Allora, è stata prodotta e ha avuto un grande successo in Brasile, dove la parola Bora significa rulli tamburi. Andiamo. Andiamo. Eh sì. Un brasiliano che vi dice Bora fantasia. Bora vuol dire andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. È come gli Yalla, come gli Yalla, esatto, Yalla, gli Yalla degli arabi. Nel frattempo vi informo che Ivana ha prenotato le camere per New York, è venuta a dircelo, è qui fuori dalla finestra che ce lo voleva dire, e Sandrino pagherà doppio, cioè questa piccola tassa. Chi è? Cos'è? Vedi che lì ce lo voleva dire. Più che altro quello che mi terrorizza, diciamo, e che dormirò ancora con Sandrino. Ma secondo me terrorizza, no, più lui, Dave, che te. Scusami, però adesso lo diciamo un attimo. Secondo me lo terrorizza di più. Non monopolizzi sempre tu tutte le volte. No, io tu sti viaggi perché finalmente arriva sempre Mr. Dave che me lo frega l'ultimo. Scusami, riferendoci, cioè, voglio intervenire un attimo al discorso della macchina. Ma scusa, ma chi ti ha chiesto niente a te? E della Bora, ecco, ci tengo a precisare che ci sarà in camera tanta Bora, ecco, da dormire con Dave si sente. No, nel senso che c'è il vento quando dormi con Dave. Ma non sono è un vento. Celli, sono 20 celli, ecco. No. Non entriamo nel merito. No, anche perché io ho capito a dirti una cosa peggiore ancora. Non oseremmo mai. A proposito, okay, però, direi di entrare nel merito della serata, perché quello c'è modo di raccontarla e motivi, esatto, per raccontarla. La mia serata si riassume in due immagini: la prima quella del dinosauro, che è in assoluto il numero uno, e la seconda i ragazzi inglesi del torneo di golf, che sono veramente simpaticissimi. Tra l'altro sono qui ancora e domani alle 8:30 sono in campo a giocare, a contendersi un torneo, e quindi complimenti, cioè nient'altro da dire che complimenti. Tra l'altro, la cosa carina, rubo 10 secondi di questo torneo. È presissimo. Sì, sì, è presissimo. Dave, golfista, fatto e finito. E no, dicevo che la cosa carina di questo torneo, me l'hanno spiegato poco fa, è che il vincitore dell'anno precedente ha l'onere di organizzare il torneo dell'anno successivo, quindi sceglie la location, i partecipanti, il periodo e tutto il resto. Cioè non c'è una sorta di associazione, è un gruppetto di 10 ragazzi che ogni anno si ritrovano in giro per il mondo a fare un torneo di golf sempre tra loro, e ognuno, cioè il vincitore dell'anno prima lo organizza per l'anno dopo. E sapete che lavoro fanno? Molto simpatici. È un po' di tutto, mi hanno detto. Un po' di tutto, ma principalmente medici. Medici, ah, c'è un architetto, c'era. Pensavo che un vendessero notaio. Le Borat. No. Le Borat. No, Borat è un'altra cosa, la Borat. La Borat è il film. Borat è bellissimo. È un gran film, sì, un gran film. Tra l'altro, a proposito di sport, secondo me la scena da Oscar, quella delle Olimpiadi. No, quello era un altro, scusa, non era il secondo di Sacha Baron Cohen. Bellissimo. Il grande dittatore, grande dittatore. Ma tanto li fanno tu che ti rispecchi nel vetro. Esatto, facciamo, li fanno sempre a te. Li fanno sempre a te. Vuoi fare l'incursione? DJ incurriamo. Che c'è? Ma c'è lui? C'è DJ. Sì, perché prima ho visto che siamo fatti una mini staffetta con un nostro vecchio c'era amico. C'era Rino. Rino ha suonato un po'. C'è Rino. Quando c'è lui e la serata si incendia. Rino Ceronte? No, non so se quando c'è lui la serata si incendia. C'è Rino. Mamma mia, Sandrina è formissima. Vai, incurriamo. Aia. Ah, qui siamo angolo DJ proprio. Eh sì, angolo ballo di gruppo. Ah, ecco, quindi non stavano salutando Nadia, stavano ballando. C'è Nadia che per una volta che continua a salutare, ma non stavano salutando. Scusa, per i bacini che mi mandavano, scusa, non è che dice. Cioè dice bacio. No, dice bacio. Dice bacio. Bacio lo dice. No, ragazzi, diciamo, stavano salutando cioè, me. Ragazzi, incredibile. Mamma mia, se siete invidiosi. Per una volta in quattro anni in cui nessuno ci stava provando con Nadia, lei ha ricambiato i saluti. È la prima volta. In quattro anni in cui nessuno. Perché di solito se la tira tantissimo. Esatto. Okay. Guarda, stai attenta. Eccolo, vedi che c'è. E te, giustamente, capelli. Tutti girati verso di qui. Bene. Capelli, parlava di te. Sì, ho sentito. Saluti. No, perché Master Nick dovete sapere che mi dà l'idea per cui. Beh, direi che dopo queste perle di musicali possiamo tornare al nostro silenzio, alla nostra base. No, scherziamo. Ah, perché stavamo ballando. Piace. La Nadia è attraente. Nadia è, quando sì, balla. Sì, si è risvegliata. I suoi istinti da ballerina di gruppo si sono infatti stavo cercando di trattenere Sandrino, che appena sente queste canzoni subito vuole andare fuori sul palco, certo, fare sulle mani, ragazzi, è una malattia. Stavo cercando di trattenerlo, per favore smetti di fare incursione in pista, perché sennò niente, allora togliamo, disincuriamoci. Ma perché non balli nel mio microfono ma in quello di Nadia? Mi piace di più spero di fare degli incidenti. Più che altro torna sempre a dormire con me, poi infatti questa cosa qua. Sì, Nadia è l'amante fondamentalmente, no? È la scappatella da Dave. Diciamo che però si sta scappando sempre più spesso Sandrino, prendendo gusto a scappare. Mi scappo. Ma torniamo torniamo a noi della serata qua, i personaggi. Dai, io ho votato il dinosauro senza ombra di dubbio. Tu Dave? Cioè, proprio a mani bassissime. Ma ricordo con piacere le ragazze di Milano. No, io sai chi ricordo invece? Quelle di Trento, fantastiche. Che le cinque trotterelline, non te le ricordi più? Sì. Che mi ha fatto fare. Che hanno trotterellato. Hanno trotterellato. Una splendida intervista. Hanno fatto, certo. Sì. Che ha fatto anche il saluto tipico di Trento. Che c'è un saluto tipico. Lo yodel, bello. No, scusate, adesso devo intervenire perché questa cosa qua. Se tipo l'avrebbe toccato sul vivo. Scusate. Allora, smettiamo di dire ai trentini che si appropriano delle robe altoetesine, che poi non sono altoetesine, ma sono austriache. Tra l'altro, erano. I trentini faranno altre cose, ma gli yodel non è trentino. Tra l'altro, le ragazze erano tantissime al tavolo, sai quante erano? Ma siccome io lo yogurt. 33. Bravo. Io lo yogurt lo mangio, non sapevo che lo fanno anche fuori, no? Certo. Yodel. Yodel, yogurt, la marca dello yogurt. Sì. Ah. Io invece mangio. La Nadia non sai mangio, invece cosa mangio? Io mangio lo Yoci TRL. Questa è sottilissima. Ma questo però adesso non è una canzone, questo è proprio amore. Fa sentire? Mamma mia. No, ci sta anche questo. Aspetta che incuriamo ancora. Senti qua. È una dichiarazione d'amore questa, fatta e finita. Certo. Niente, quindi non l'avete capita la mia. Allora, io Dell sul computer che c'è il cancio, che è il Dell e Yoci TRL. Ma questo è troppo sottile. Comunque, sottile. Nessuno di voi ha notato una cosa fondamentale in me. Ho fatto un cambio. Che sei diventata Mora. Ma infatti, avevo visto. Avevi visto? Pensavo fossero le luci. È successa una cosa incredibile. Pensavo fossero le luci. In bagno con lei, non so. Pensavo fossero le luci. No, invece sono diventata scura. E è incredibile che da due giorni inizio a capire tante cose. Riesco a seguire tanti discorsi. È incredibile. Noi, ragazzi, è incredibile. Noi ci impegniamo. È una sensazione che non avevo mai provato. Ma noi vogliamo la bionda. Veramente. Che sei sempre però è frustrante, perché noi ci impegniamo al massimo per dire delle belle battute e poi vince lei facile. Sì, ma più che altro adesso riesco a capirle. Cioè, questa è bella. Questa qua ha vinto vinto... E mi si è aperto un mondo. Io sono rimasto senza parole, sono rimasto. Più che altro sono rimasto senza, ecco. Esatto, esatto. Beh, niente, quindi non siete contenti di questo cambiamento? No. Preferivamo prima. Perché almeno potevamo elevarci a persone più intelligenti. Invece esatto. Adesso niente, mi daranno anche la laurea in honoris causa. Bello. Beh, insomma, in qualcosa importante. Che scopriremo. Beh, tanto l'ho andata più o meno a tutti, quindi qualcosa di tuo. Sì, l'ha presa per scorso. Lo troverai. A me no, non me l'hanno mai data. Prova a farti moro anche te. Esatto, dovresti farti moro. Perché il brizzolato è andato, era anni 2000. Capito? Solo George Clooney brizzolato. Brizzolato a chi? Cioè, storia. Ma... Tu Nadia, chi ti ha colpito stasera? Oddio, parecchia gente. Beh, secondo me tantissimi avrebbero voluto colpirla, però non c'è riuscito nessuno. No, io più che di stasera, che erano tutti veramente simpatici, eccetera, però sì, ci terrei a salutare. Sono d'accordo. Sì, tanta bella gente. Ci terrei a salutare un attimino i ragazzi di ieri. Ieri sera siamo stati protagonisti di una piccola messa in scena. Che diciamo, provincia è ieri? Ieri c'erano diverse persone, di cui un pezzo spiccato. Ieri sera. Poi c'erano questi ragazzi qua che festeggiavano la Dio Celibato di Salvatore. Che erano tutti ballerini di breakdance. E addirittura c'erano degli insegnanti. Avevamo improvvisato una piccola gara di ballo che ricordava molto i balli in strada negli Stati Uniti, dove quindi poi ognuno improvvisava, si metteva in gioco. E la pagina Facebook del convento. Erano dei duelli. La pagina Facebook del convento mi ha segnalato che li ha vinti Sandrino, tra l'altro. Per acclamazione del pubblico. A un certo punto i vari insegnanti sono fatti in parte e hanno consegnato lo scettro del potere a Sandrino, che l'ha abilmente usato come palo per una delle sue performance. E che tra l'altro sta reclutando persone perché inizierà un corso di breakdance e lui farà il maestro a brevissimo. Solo che non hanno capito che quando mi sono esibito io mi sono inciampato, mi sembrava di avere un moscerino che mi punzecchiava per terra e continuavo a girarmi. Ecco, diciamo che Sandrino ha capito male il senso di breakdance, nel senso che si è rotto 200-300 ossa nel ballando, muoversi, esatto. Ma proprio l'ha interpretato male, un po' interpretato a modo suo, però ha cercato di portare il contributo. Portato il contributo. Ha contribuito. Bene, quindi salutiamo bene. Anche i ragazzi di Milano. No. No, dove erano? Dillo di dove erano. Di ieri. Non lo so, Nadia, non c'ero. Ha scritto nelle dediche i ragazzi di Viareggio. Uh-huh. E io ho detto stasera da Viareggio. Alla fine erano di Bareggio. Che perfetto. Vicino Milano. Vabbè, perché ieri non ero ancora mora. Esatto. Pensa che ha preso la decisione proprio in quel momento, quando ha confuso la Toscana con la Lombardia. E quindi ha detto: vabbè, basta, ragazzi. È il momento di dare un taglio, di dare una svolta alla mia vita. Esatto. Detto questo, ci rivedremo sicuramente la prossima settimana con questa nuova Nadia che vi sorprenderà in altro modo. Chissà quante cose capirò. E chissà, esatto, potremo aprire un angolo le cose che Nadia ha scoperto. Paura. Le scoperte panico, di Nadia. Panico, paura. Potrebbe stare un angolo educational. Un angolo educational per, come dire, elevare anche qui la conoscenza dei nostri ascoltatori. Detto questo, vi salutiamo, anche perché Dave si sta addormentando e quindi ci conviene chiudere qui? Sì, no, ancora niente, 5 minuti, niente. Dai, ancora 5 minuti. No, è tutto a posto. Vi ringraziamo per essere stati all'ascolto e per essere stati protagonisti, chi lo è stato qui con noi questa sera. E niente, c'è qualcosa che qualcuno vuole ricordare? Mi sono fatto Mimi. No. No. Direi di chiudere il collegamento. Io lascio libero, è una democrazia, quindi lasciamo libero spazio. Scusa, di pensiero. Tu vuoi ricordare qualcosa? Io volevo ricordare che Dave sta dormendo. Io sono perfettamente sveglio. Volevo ricordare un saluto festoso a tutti. Che con questo non ma è originalissima questa. Con la solita vera. No, non è originalissima perché l'ho rubata ad Alessandro Manera. Sì, no, giusto. Infatti era molto ironico. Cazzo, no. Ma chi è la bionda qua adesso? Scusami. Non è che la mia biondità è passata a te? È bellissimo. Ma si trasmette per DNA, per genetica. Vedere Dave sabato prossimo col pizzetto biondo. Beh, ecco, così sta. Mi farebbe. Potrebbe essere. Cool. Potrebbe essere una scelta di stile. Potrei farcela da solo con un po' di acqua ossigenata, no? Questa 24 volumi. 40 volumi. 40 volumi sono tanti da portare. Io spegnerei perché ci stiamo addormentando. Esatto, no, io non sto più capendo niente, per cui mi sono completamente straniato. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, ragazzi. Buonanotte. Grazie mille per essere stati con noi. Alla prossima. Prima noi notte.